Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Solo mafia e terrorismo, solo qui nel nostro paese, ne hanno uccisi 11. Il primo fu Cosimo Cristina, a Termini Merese nel 1960. L'ultimo, Beppe Alfano, morto a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1993. Ma a questo triste elenco di giornalisti ammazzati da mafia e terrorismo bisogna purtroppo aggiungere molti altri nomi, quelli di altri cronisti morti in terre lontane, per mano di gruppi criminali o durante guerre politiche, uccisi per un'inchiesta o uno scatto, tutti comunque morti per la loro passione da reporter, titolo del libro di Daniele Biacchessi per i caratteri di Chiare Lettere. Ilaria Alpi e Miran Rovatin, Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Antonio Russo, Enzo Baldoni. In Russia, dopo Anna Politkovskaja, almeno altri due giornalisti sono stati ammazzati per i loro articoli. Molti altri in giro per il mondo vengono fatti sparire. Ma anche qui, da noi, all'interno dei nostri confini, alla malavita organizzata, spesso la penna di un cronista fa più paura del pericolo delle manette. Così la camorra non esitò a zittire definitivamente il giovane Giancarlo Siani, giornalista del Mattino. Paolo Siani, a lei, fratello di un giovanissimo giornalista ucciso dalla camorra, che effetto fa ascoltare le tante storie dei giornalisti che hanno perso la vita per il loro mestiere? C'è un filo conduttore che accomuni queste storie? Sono tutte storie uguali. Sono storie di uomini, ragazzi, giovani o meno giovani, lasciati soli per qualche verso. A volte per combinazioni, a volte per situazioni che si creano in quel momento storico. Ma se uno guarda, sente o si informa sulle storie di questi giovani, di questi uomini, li trova soli. Come in fondo, diciamo, Giancarlo è rimasto solo, nel senso che le cose che li pubblicava da solo e non c'era in quel momento altri che pubblicassero l'inizio che li pubblicava. Questa è, credo, di cogliere nelle storie un filo rosso che le unisce e che invece deve farci capire che i giornalisti di oggi, gli uomini di oggi impegnati in questo tipo di battaglie, non devono mai essere lasciati soli. Penso a Roberto Saviano, che è il mio amico e che conosco e che è una storia a tutti nota, che deve sentire la vicinanza di tutti, perché questo lo rende più forte e forse immune da qualsiasi altra cosa. Non lasciare soli i giornalisti minacciati, lo dice con forza Paolo Siani. Lui è il fratello di Giancarlo, l'abusivo, secondo il titolo del celebre libro dedicato al giovane cronista napoletano ucciso il 23 settembre del 1985. La sua storia sta ora commuovendo soprattutto tantissimi giovani attraverso la pellicola Fortapache. Ero molto preoccupato di questo film, ero preoccupato di come si riuscisse a rendere bene la figura di Giancarlo, perché il rischio quando si trattano questi argomenti era di far venire fuori un ritratto non aderente alla realtà, e il rischio che potesse Giancarlo apparire un Don Chisciotte, uno sprovveduto che lottava contro dei mulini a vento senza tenersene conto era molto forte. Con il resto della forte vinse fuori invece un santino. Invece devo dire che l'intelligenza di Marco Risi, dei sceneggiatori, che hanno trascorso molte ore con me, con la mia famiglia, molti giorni, ha arricchito il film di verità. Si racconta in modo lineare, in modo molto efficace, credo, visto anche cinematografico, che era un ragazzo normale, un ragazzo semplice, un ragazzo schietto, un ragazzo che amava la vita, che faceva questo mestiere nell'unico modo che ci hanno insegnato i nostri genitori, cioè farlo bene, farlo con correttezza, raccogliendo notizie, camminando per strada, quindi sporcandosi le sue scarpe, e quello che raccoglieva lui raccontava ai suoi lettori. Se leva sul sito di Giancarlo lo troverete migliaia di messaggi di persone, giovani, ragazzi che hanno visto il film, tornano a casa e scrivono impressioni, scrivono pareri, scrivono commenti, che serve, io credo, anche a far sentire più appartenenti alla nostra terra, più vogliosi di cambiare le cose. Quindi insomma, il film ha anche una valenza positiva in questo senso. Ogni mossa va pesata, e ormai se ne sono conto, no, di dove siamo. Questo è Fortapache. Ma chi è questo giornalista? Questo giornalista è un pazzo. Che ci dobbiamo fare? Una tirata d'orecchio. Ma qua tirata d'orecchio? Era un ragazzo normale, appassionato per il suo lavoro da reporter, Giancarlo Siani. Non sono dei Don Chisciotti imprudenti, cronisti uccisi per il loro lavoro, secondo un'etichetta che troppo spesso invece viene loro affibbiata, come ricorda Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, nella prefazione al libro Passione Reporter di Biacchessi. Sono passati quasi 24 anni appunto dall'omicidio di suo fratello, di Giancarlo Siani. Si sa che spesso nelle realtà dove la malavita organizzata impera, anche essere familiare di una delle vittime della malavita, in questo caso della camorra, non è semplice. Dopo l'omicidio di suo fratello, in qualche modo in questi anni anche la vostra stessa vita, la sua vita, quella della vostra famiglia, nella dimensione, diciamo così, anche quotidiana delle persone, dei paesi, delle realtà frequentate, ha in qualche modo avuto delle ripercussioni? No, guardi, la verità è che questa cosa è stata talmente tanto brutta, tanto cattiva, ma tanto inutile, che la solidarietà delle persone, di tutte le persone, è stata subito enorme. Io le racconto che pochi giorni dopo gli studenti di Napoli scesero in piazza con la foto di Giancarlo, cioè c'è stato subito un movimento enorme di solidarietà, di vicinanza, anche di ribellione a un gesto così forte, così cattivo e ripeto così inutile, che io ho sentito sempre questi lunghissimi anni molta solidarietà, molto apprezzamento, molto anche calore umano verso questa vicenda, perché Giancarlo io credo che sia rimasto nel cuore delle persone con quel viso, con quel disegno sul volto, il segno della pace, come un'icona di brava persona, di un ragazzo giovane che solo perché faceva il suo mestiere è incappato in questa terribile vicenda. Quindi Giancarlo secondo me è per i ragazzi, è stato per i ragazzi dell'85, per i ragazzi del 90 e anche per quelli di oggi che lo conoscono attraverso il film Forte Apache, un'icona positiva. C'è stata di recente anche una polemica dopo la diffusione del film, c'è stato chi aveva chiesto che fosse ritirato. Sì, questa purtroppo è una cosa che mi ha molto rammaricato, perché conosco bene chi ha fatto questa richiesta, capisco molto bene le sue motivazioni. Ovviamente sarebbe molto grave se il film fosse ritirato, perché questo è un film che invece che parlo al cuore delle persone, però comprendo le motivazioni di chi ha chiesto questa cosa, perché nel film, in realtà, quella parte del film che parla dei giornalisti e amici di Giancarlo che stavano con lui in redazione è una parte in cui il regista ha inventato un personaggio e lo ha molto chiaramente fatto da una macchietta, perché è insomma anche il personaggio scelto, come si muove, lo rende non veritiero. Io ho dichiarato subito dopo che Giancarlo aveva avuto i maestri, cioè per fare questo mestiere non aveva a casa un padre giornalista o tra i suoi colleghi che c'è qualcuno che gli ha insegnato a fare evidentemente bene questo mestiere, per cui quelli che venivano onesti non sono effettivamente le persone che erano con lui in quegli anni a Torre Annunziata. Chi era in quegli anni là si è visto identificato e quindi si è sentito in qualche modo maltrattato dal regista e dal film, però nell'ottica complessiva io credo che va al di là delle persone, ma piuttosto il messaggio che il film vuole lanciare. Io ho visto ragazzi piangere, io quando il film è stato presentato, dopo che a San Carlo, ma anche al carcere minorile di Nisida, ci sono ragazzi che sono in carcere per delitti anche gravi, io ho visto piangere questi ragazzi alla fine del film. Una ragazza ci ha detto, uscendo, che muore un camorrista a me non mi meraviglia, ma lui non doveva morire in questo film. Storielle. Storiacce. Ormai Valentino Giunta è il boss indiscusso della camorra Torre Annunziata. Mi piace? Sa Giancarlo Siani. Stava per scrivere un altro scoop Giancarlo Siani. Prima di essere ucciso aveva confidato ad un amico che aveva trovato una notizia importante che non poteva anticipargli a voce. Scriveva di Camorra, Siani, soprattutto degli affari del boss Valentino Giunta di Torre Annunziata, ma anche di tutte le connivenze politiche nella ricostruzione del dopo terremoto. E a lungo Paolo Siani, il fratello, ha cercato tra appunti e block notes le tracce di quest'ultimo scoop mai scritto da Giancarlo. Giancarlo, siamo due fratelli, siamo sempre insieme, abbiamo fatto tante esperienze insieme, discutevamo tanto spesso cosa gli facevo, che facevo io. Era un ragazzo allegro, andavamo insieme a vedere le partite del Napoli, eravamo tifosi entrambi del Napoli, insomma una vita del tutto regolare con due ragazzi normali degli anni Ottanta, in un mondo che voglio rammentare, un mondo diversissimo di oggi, non c'era il telefonino, non c'era il computer, solo per darvi due elementi per farvi capire di che mondo stiamo parlando, quindi due ragazzi che in quell'epoca con pochi strumenti cercavano di vivere al meglio la loro vita divertendosi e facendo esperienze positive. E lui, della sua passione anche giornalistica, dei suoi inizi, gliene parlava, come condivideva con lei questo suo inizio di carriera che l'aveva portato ad affrontare da subito appunto il settore più difficile in una delle realtà più difficili d'Italia? Lui aveva una passione, era appassionato. Io penso che poi la differenza negli uomini è quelli che hanno passione e quelli che non hanno passione. Lui aveva passione per questo mestiere. E io ricordo che lui andava, prima che scrivesse sul Mattino, comprava la mattina tutti i giornali e andava a fare una rassegna stampa in una radio locale di Napoli. Quindi alle 7, se prima la sua motocicletta, comprava tutti i giornali e raccontava la rassegna stampa. Lui già in prima media, col suo maestro delle scuole medie, che negli anni, tanti anni prima di quello che si fa oggi, inventò un giornale di classe, lui dopo qualche mese nominò redattore capo del giornale, perché lui riusciva a fare meglio degli altri questo mestiere, anche a coordinare gli altri bambini. C'era dentro di qualche cosa evidentemente che era più forte, quindi questo lo aiutava e lo spingeva a fare sempre meglio questo mestiere. Poi c'era passione, non si risparmiava. Lui nel film c'è una scena che alcuni suoi amici mi hanno fatto notare che esprime quello che Giancarlo era, quando lui va un corteo di operai e lui nel corteo con carta e penna prende appunti e scrive dentro una notizia anche lì, lo faceva anche divertendosi, però, perché si lamentava che era stanco perché non faceva i stadi da vari anni, però insomma lo faceva con passione e con divertimento, e questo che sia una cosa bella che c'era dentro di lui e che se si leggono i suoi articoli, gli oltre 1000 articoli che ha scritto, questo filo si percepisce, cioè si legge dentro le sue storie un qualcosa in più che lui aveva dentro. E quando i suoi articoli cominciarono a diventare sempre più precisi, sempre più interni, sempre più forti nelle denunce contro i boss, soprattutto di Torre Annunziata, ecco, la famiglia, voi, tutti quanti voi, lei, in che modo vivevate questa sua esposizione, perché comunque c'era la sua firma e comunque si sa che alla Camorra non piace che i propri affari finiscano sulle pagine dei giornali. C'è mai stata una volta in cui gli avete anche detto o pensato di dire di non esporsi così tanto? Lui ha mai confidato di essere spaventato? No, noi abbiamo molte volte, io ma anche mia mamma e mio padre, abbiamo spesso chiesto, ma forse è pericoloso quello che fai, forse se ti esponi troppo, ma lui era molto sereno, lui era molto tranquillo, riteneva e in questo si tranquillizzava molto, che non era un'esposizione solo alle righe, lui raccontava i fatti, non faceva inchieste che non fossero già fatte dalle forze dell'ordine, quindi non è che lui svelava cose non già ufficiali, quindi non aveva solo fonti ufficiali, per cui lui di questo era molto tranquillo, molto sereno e quindi anche noi ci tranquillizzava molto in questo senso. E poi non è mai successo che venisse fatto un giornalista in Campania, come noi mai dopo è successo, quindi questa percezione non l'avevamo nessuno e nessuno pensava che fosse in pericolo, proprio veramente nessuno, neanche i suoi colleghi, neanche i suoi amici lo pensavano. Che lì fosse preoccupato gli ultimi giorni, questo l'abbiamo forse capito dopo, ma pensare che allora non c'era il telefonino, lo ripeto, per cui le sensazioni che uno prova oggi e che subito racconta all'amico con la telefonata, allora non era possibile fare, per cui nell'ultima giornata della sua vita, che abbiamo poi saputo dopo, perché non abbiamo, io l'ho vista la mattina che uscì e poi non l'ho più visto, ci sono state le cose che l'hanno preoccupato, ma queste non siamo stati messi nel corrente perché non avevamo modo di comunicare, stando io da una parte, lui da un'altra, e senza l'immediatezza della comunicazione che adesso c'è via telefonino. Però noi, se devo dire che eravamo preoccupati per lui e che avevamo messo in atto delle pratiche per tutelarlo, questo no, non eravamo affatto preoccupati per lui, né lui credo che fosse preoccupato fino a questo punto. Aveva negli ultimi tempi scritto soprattutto tanti articoli contro il sul boss Giunta, Valentino Giunta, e si disse che stava per pubblicare anche un libro sui rapporti poco chiari, sugli aspetti poco chiari della ricostruzione del post terremoto. Sì, questo neanche se più si è mai trovato questo lavoro, per cui non sappiamo cosa avesse scritto. Sappiamo da alcune lettere che ha scritto la sua amica che sta lavorando a questo nuovo servizio su Vuttone Annunziata, però non si è trovata traccia da nessuna parte di questo suo lavoro, c'è solo l'articolo che pubblicò sulla rivista chiamato Lamberti, il primo articolo sulla tua Vuttone Annunziata, però un secondo non se n'è mai più trovato, quindi io realmente non so se questo lavoro c'era, era solo scritto o se lo stava pensando, se lo stava organizzando, questo veramente non lo so. Né a lei quante volte si sarà posta la domanda di che cos'era quella notizia che suo fratello, che Giancarlo Siani, aveva detto che non poteva confidare al telefono neppure appunto ad Amato Lamberti, presidente dell'osservatorio sulla Camorra, ma si riservava di dirglielo a voce. Quante volte lei ci avrà ripensato a che cosa potesse essere quella scoperta che Siani aveva fatto, e dopo i processi si è fatto lei un'idea? Sinceramente no, io non so proprio, perché su quell'ultima giornata non ho mai avuto ovviamente testimonianza diretta, perché non l'ho salutato la mattina e poi non l'ho più visto, quindi io non so cosa fosse successo quel giorno. Abbiamo gli inquirenti hanno rifatto un percorso, hanno intercettato delle sensazioni sue, quindi essere la telefonata fuori eccetera, ma che cosa in realtà volesse dire la Lamberti io non lo so, e ne abbiamo trovato in casa fra le sue cose qualche traccia di questo. Poteva voler raccontare forse il secondo sviluppo del precedente articolo, però sinceramente questa è stata la cosa che ci ha più di tutti nei giorni successivi affannato a cercare questo dossier, queste notizie, queste cose, ma non ce n'è stata trovata traccia da nessuna parte, quindi questa è la cosa che insomma più ci lascia, che più mi lascia disperato, perché veramente questa è una cosa che poteva aiutarlo a non finire così. Era un abusivo Giancarlo Siani, stava facendo la sua gavetta da collaboratore esterno per Il Mattino. Giancarlo era non ancora giornalista, stava cominciando a farlo, nell'unico modo che si accede alla professione, almeno in quegli anni, ma era di stare in un giornale come abusivo per poi pian piano essere assunto. E quel libro e il film, credo anche, la storia di Giancarlo, io credo che sia proprio dedicata a quei tanti, mi hanno detto che sono tanti, giornalisti piccoli come lui, che scrivono su piccoli giornali o su piccole riviste internet, che non hanno un contratto, ma che scrivono tutti i giorni le cose che vedono. E io ne ho avuto anche da loro, persone che io non conosco, mi hanno scritto, io sono un giornalista come la sua fratella, perché scrivo su una piccola testata, ma racconto i fatti che vedo. Tutta questa storia credo che sia un po' anche dedicata a loro. Come Siani, non era un interno ad una redazione, Enzo Baldoni, giornalista freelance assassinato in Iraq nel 2004 e il cui corpo non è stato mai restituito alla famiglia. Proprio da inviato in qualche terra lontana, lui aveva immaginato già la sua morte in una lettera che aveva lasciato e che è stata pubblicata ora in calce al libro di Biacchessi, Passione Reporter. Trascurando il fatto che io sono certamente immortale, se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, evento verso cui servo la più tranquilla e sorridente delle disposizioni, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Potrebbe essere anche la casa delle balene, se ci sarà già o ci sarà ancora. L'ora? Tardo pomeriggio, verso l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere perché magari sono sparito in mare in uno dei miei viaggi, non è una cattiva morte. Ci sono stato vicino, ti prende una gran serenità. Andrà bene la sedia dove lavoro col mio ritratto sopra. Verrà data comunicazione, naturalmente per posta elettronica, alla lista Enzo B e a tutte le altre mailing list che avrò all'epoca. Si farà anche un annuncio sui miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica verrà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri e colorati. Vorrei che, per non più di 30 minuti complessivi, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli e i miei amici più stretti tracciassero un breve ritratto del caro estinto, coi mezzi che credono. Lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma, haiku. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno essere pronunciate. Dolore, perdita, vuoto incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno, e poi tutti gli eufemismi come si è spento, è scomparso, ci ha lasciati. Il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate fra il pubblico. Quindi dateci dentro e non risparmiatemi. Tanto non ne avrete mai veramente idea di tutto quello che ho combinato. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con vino, panini e paninetti, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra e salsicce e tutto quel che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, che cominci a suonare musiche allegre, violini e sax e fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla bara. Che cazzo, mica tutto a voi. In fondo sono io che pago. Datene un po' anche a me. Voglio che si rida. Avete notato? Ai funerali si finisce sempre per ridere. È naturale. La vita prende il sopravvento sulla morte.